essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ci vogliono canzoni che possano arrivare in cima ai grattacieli e in fondo alle miniere. Canzoni per le madri che stanno ad aspettare, canzoni per chi parte e spera di tornare. Canta che ti passa la paura, canta che la vita è bella. E aiuterebbe in questi tempi farsi una bella cantata per tirarsi un po' su, ma non tutti possono cantare a cuor leggero, c'è chi deve fare finta, muovere solo le labbra, cantare di nascosto, sotto la doccia, in macchina, al riparo dalle orecchie di amici, parenti e figli. Per chi sa di essere stonato, perché o per chi viene etichettato come tale, il canto è ricerca, diciamo così, perché deve trovare il momento e il luogo ideali. Fatevi sentire. La la la la la la la. Va bene. La la la la la la. Quello chi è? È il rampollo di Memphis e Norma Jean. Ah, il piccolo salterino. La la la la la la. Non è divertente. E buongiorno al professor Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico USL di Ravenna. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professore, c'è chi sa di esserlo perché proprio sente di stonare, chi invece pensa di essere intonato, ma poi vedendo le reazioni di amici, parenti, sentendo le loro suppliche, ti prego, no, non cantare più, si mette a cantare in segreto. Ma tra queste due situazioni c'è differenza? Sì, dunque la difficoltà di intonazione viene anche detta tecnicamente amusia, ed esistono due tipi di amusia. Un'amusia di recezione, cioè la persona che neanche si rende conto delle differenze ascoltando un brano, delle differenze di tonalità e quindi non riconosce una canzone da un'altra, un motivo da un altro. Mentre invece esiste una amusia di produzione, che è praticamente la difficoltà di mantenere l'intonazione. Allora ci sono persone che non rispettano assolutamente neanche gli intervalli tonali, quindi cantano proprio un'altra cosa, mentre invece ci sono persone che sbagliano semplicemente la tonalità, cioè rispettano gli intervalli ma la fanno il brano o più alto o più basso. E questo tipo di distonazione può essere assolutamente recuperata attraverso un allenamento, soprattutto nella prima infanzia, quando le capacità sinaptiche e i neuroni sono ancora molto plastici, quindi c'è la possibilità di migliorare l'intonazione, proprio la capacità di mantenere i giusti intervalli durante una frase musicale. Ma direi che è arrivato il momento di affidare le nostre ugole di bronzo a Danila Satragno, che è jazz singer e vocal coach, che è in linea con noi. Danila, ciao, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Tu trasformerai le nostre ugole di bronzo in ugole d'oro? Ah, ma io lo spero, anzi, ho dedicato la vita a questo, quindi spero proprio di riuscirci. Senti Danila, come facciamo a capire se siamo stonate? Ci aiuti a fare un piccolissimo test di autovalutazione? Certamente, diciamo che il gradimento del pubblico può già essere un test molto importante, ma anche noi possiamo valutare questa cosa ovviamente. Ecco, un esercizio molto semplice, per esempio, che spiego spesso alle persone che si divertono a cantare, di provare proprio a cantare insieme all'artista e riprodurre gli stessi movimenti, gli stessi intervalli. Facendolo più e più volte è sicuramente una cosa che aiuta tantissimo. Cantare con i big, insomma. Questa è una buona idea, però quando poi spegniamo e cantiamo da soli, le differenze le notiamo. Le notiamo, però diciamo che l'allenamento è importantissimo, siamo come dei piccoli atleti, per cui l'allenamento, allenarsi con gioia e spesso porta a grandissimi risultati, chiaramente con un tutor, con un aiuto, con un insegnante di canto è tutto molto più semplice, ma possiamo farlo anche autonomamente. Io ho lavorato molto su questo, anche nel mio libro, nel mio DVD c'è proprio il modo per poter autogestire la propria voce, insomma, con esercizi facili e divertenti. Diamone uno, Danila, che poi andiamo subito a Roma, che c'è Loriana, intanto la saluto. Loriana, stia attenta e buongiorno. Sì. Allora, Danila, siamo pronti. L'esercizio è divertente per riuscire a sensibilizzare ancora più l'orecchio interno ed essere più consapevoli dei suoni è provare a cantare con le mani intorno alla bocca, intorno al naso, come proprio per chiudere il suono, e provare a suonare e a cantare in quella posizione. Avremo una percezione del suono ancora più profonda. Proviamoci. Loriana, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei canta, vuole provare a cantare con la maschera? Non sto nella posizione migliore per cantare adesso, volevo soltanto dare un piccolo contributo all'argomento. Grazie, lo aspettiamo, mi dica. Dunque, io ho sempre cantato, fin da quando ero piccola, e canto anche inavvertitamente, o a mente oppure sottovoce, insomma dipende da dove mi trovo, ma insomma... molto spesso non mi rendo conto. Una persona una volta mi disse: ah, ma lo sai che le persone che canticchiano non hanno tutte le rotelle a posto? Lì per lì non ho saputo che rispondere. Una volta successiva sempre la stessa persona mi fa: ma lo sai che può dar fastidio? Allora gli ho risposto: perché mi spengo? Brava, brava Loriana. Professor Fussi, ma lei che dice? Ma sull'argomento intolleranza dell'amico della signora Loriana. Certo, a questa idea che le persone che canticchiano da sole, si dice, no? Chi canta a tavola e a letto è un pazzo perfetto, sì, si diceva. Sì, perché c'è questa necessità della psiche di manifestare, di esibire, di comunque esternare probabilmente quelli che sono gli stati d'animo del momento, che possono essere di gioia o di dolore, e quindi un atteggiamento non considerato nella norma o non accettato da tutti. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare. Viene voglia di cantare a sentirla, perché mette allegria. Tra l'altro, adesso le ricerche confermano sempre di più che il proverbio canta che ti passa ha dei fondamenti scientifici. Danila, quindi tu in qualche modo che canti e insegni a cantare dovresti godere di ottima salute. E di grande energia, perché veramente cantare fa bene al fisico, direi che è quasi una cura di wellness, di bellezza e di salute, perché ci aiuta a ossigenarci, perché come diceva il professor Fussi è liberare le emozioni e dare gioia, la musica, il canto è gioia ed è benessere e ci aiuta veramente anche a metterci in comunicazione con se stessi e anche con gli altri, perché a volte no, quando si dice gliel'ho cantate tutte, è proprio un modo liberatorio per vivere, per cui sicuramente fa bene agli adulti, fa bene ai bambini, è una disciplina importante anche perché ti aiuta veramente a metterti in contatto col tuo corpo, a conoscerlo, e un ottimo modo per mettere in contatto corpo e spirito, corpo ed emozioni, e in questo momento storico secondo me ne abbiamo particolarmente assolutamente bisogno. Anzi, io colgo l'occasione per invitare gli ascoltatori a cantare proprio con i loro bambini, è un esercizio piacevole e divertente. Accomuna le generazioni, certo, certo, il nonno col nipotino è veramente un qualcosa di estremamente magico. È proprio vero che la voce è lo specchio dell'anima. E poi canta che ti passa. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno dottoressa Luini. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lei è una canterina? Io sono stonatissima, però canto. Non mi importa dell'effetto che faccio, canto da sola in casa, i gatti scappano, ma io sono felice. e oltre a fare bene, perché certo, tiene su un po' il morale, le ricerche dicono che fa anche bene proprio alla nostra salute. Succedono delle cose straordinarie mentre cantiamo, proprio perché evidentemente la respirazione attiva alcuni meccanismi. Sì. È un peccato che la nostra cultura occidentale lo scopra solo adesso, ma in realtà la respirazione ha un effetto diretto sul il ritmo del cuore e sulla pressione, no? La pressione arteriosa. Uno studio di Osaka, quindi uno studio giapponese, ma anche uno studio italianissimo fatto a Firenze dal professor Modesti, che voi ben conoscete, hanno dimostrato che respirare in modo adeguato con la musica, magari ridendo o sorridendo, oppure facendo lo yoga della risata, o ancora seguendo situazioni che ci divertono e che quindi ci danno una respirazione più profonda, più calma e regolare grazie al divertimento, abbassa la pressione. Cioè, se soffriamo di pressione alta, se la nostra pressione è ballerina, impariamo a respirare e come? Grazie al canto, grazie alla musica e grazie alla risata. Il senso di tutto questo dal punto di vista scientifico qual è? Noi siamo capaci di regolare la nostra pressione arteriosa e quindi la salute del nostro cuore, per esempio, con una respirazione più regolare, più calma, e quella respirazione che va più profonda dentro di noi. Ridere, per esempio, e cantare, oppure seguire il ritmo della musica ci aiuta a fare questo. Grazie dottoressa Luini, oggi impareremo quindi a cantare, a parlare, a usare la respirazione, come sempre a sorridere un po' di più. Grazie dottoressa Luini, noi ci sentiremo presto. Buona giornata. Grazie, a voi. Ferma! Cosa è successo, Decio? Lina, guarda cara, non ti ricordi, te l'ho detto, c'è un microfono qui dentro. Nel cespuglio. Sì? Devi parlarci dentro. Ma parlavo io, è vero signorina? Sì mia cara, ma faccia bene attenzione, la pronuncia chiara. Pierre, tu rischi la vita. Pierre, tu rischi la vita. Sì mia cara, va meglio. Ma a volte la nostra voce non è intonata perché stride con il nostro aspetto. Anche in questo caso stona. Sentiamo che in qualche modo non ci rappresenta, ne vorremmo una diversa, anche se la voce che sentiamo noi è diversa da quella che sentono gli altri. Ma occupiamoci di chi non è contento della propria voce perché è stonata, ad esempio con il proprio fisico. Professor Fussi, ci sono persone con fisici imponenti, pezzi d'uomo, no? Come si dice, con voci sottilissime e viceversa. Da che cosa dipende? Si può correggere? In genere dipende dalla conformazione della laringe, delle corde vocali e delle cavità di risonanza, che non sempre sono in sintonia con quello che può essere l'aspetto corporeo. Quindi ci può essere la persona di grande stazza che ha però una laringe piccola o delle corde sottili o una cavità di risonanza più povera, e quindi mostrerà una voce inadeguata rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare dal suo fisico imponente, e quindi una voce più debole, più sottile, oppure più acuta, oppure timbricamente più aspra. A volte ci sono anche delle patologie, delle anomalie congenite delle corde vocali, della laringe, che provocano delle timbriche particolarmente molto particolari e non particolarmente gradite, come timbri aspri o come timbri legnosi o come timbri particolarmente stridenti o acuti, che cozzano contro una figura che magari denota altri aspetti, altre caratteristiche fisiche. Ma professore, si può fare qualcosa? Sicuramente sì, per quanto riguarda le anomalie congenite si possono ottenere attraverso degli interventi di fonochirurgia dei miglioramenti della vibrazione della corda vocale, un timbro più morbido, più caldo, più ricco di armonici. Ovviamente invece in base alla lunghezza della corda vocale che ci permette di classificare una voce, allora in quel caso una voce troppo acuta, una voce troppo grave può essere modificata attraverso anche una riabilitazione logopedica, soprattutto quando si fa fatica a fonare per lunghi periodi. Insomma, c'è da lavorare, ma si può trasformare una voce magari che non ci rappresenta, che non ci piace, in una bella voce. Intanto abbiamo Massimo che ci chiama da Bologna e Carlo dalla provincia di Firenze. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Niente, a me piacerebbe cantare, no? Però ho una voce che quando canto scappano via tutti. Ma non è vero, ma non è vero, Massimo. No, come non è vero, glielo dico io. Come, perché io ho degli amici che suonano, che hanno dei gruppi seri, cioè nel senso che sono persone che praticamente lo fanno proprio per professione, cioè suonano 7 giorni su 7, voglio dire, capito? Cioè sono gruppi, e qualche volta, cioè io vado spesso con loro così, ascolto la musica, mi piace molto la musica, mi piace molto sentire cantare. Qualche volta ho provato anche a cantare, mi hanno detto cambia mestiere perché non è proprio il caso, che è abbastanza, cioè sono abbastanza, cioè proprio, come si dice, proprio non ho il ritmo, non la sento. Nelle orecchie. Ecco, professor Fusti, sarà ritmo nelle orecchie o un problema di laringe? Ma no, io penso che sia un problema di educazione, nel senso che fare comunque magari un percorso di educazione logopedica e poi di coaching vocale con un maestro di canto possa assolutamente migliorare la situazione, perché il problema è prendere coscienza, prendere possesso e consapevolezza di come usare lo strumento. Anche a me, se mi danno in mano una Ferrari, la guido sicuramente molto peggio di Schumacher, quindi devo comunque allenarmi per imparare ad usarla. Danila, possiamo dare un consiglio? Intanto volevo proporvi un invito che arriva al 349-238-6666. Quali sono i posti in cui cantiamo di più sotto la doccia? Alcuni mi scrivono in bici, quando sono da solo, canticchiate durante la giornata. E che cosa canticchiate? Oppure parlate da soli. Tu canti sempre, non solo io sotto la doccia. Quindi... e ascolto cantare. E devo dire la verità che appunto la voce è uno strumento bellissimo che si può, come ripeto, allenare molto, molto facilmente, e tra l'altro in modo veramente molto divertente, ottenendo dei risultati veramente incredibili, perché con un buon training, appunto, lavorando bene sulla respirazione, sulla coscienza di sé e sulla musica, veramente si possono trasformare le voci. E spesso mi capita anche con i cantanti che le voci non appartengono esattamente alla persona, qualcuno mi dice appunto: ma io mi sento una voce enorme eppure mi esce una voce piccolina. E spesso è proprio il non saper usare la macchina, come dice il professor Fussi, e spesso anche possono essere problemi emotivi di timidezza, oppure si rimane legati alla voce più infantile, sono spesso problemi, diciamo, di identità emotiva, ed è meraviglioso scoprirli scoprendo la propria voce. Quindi perché... Danila, però il primo consiglio che tu hai dato è, fino adesso abbiamo raccolto due consigli. Il primo, cantare con una mascherina, mettiamo le mani, no? Un po' certo, a coppetta tra il naso e la bocca, lo sta facendo anche Carmelo, non posso farlo intanto che vi parlo, perché se no vi parlo così. Ecco, e lì così sentiamo la nostra voce, sia cantata che parlata. Che parlate, esatto. Okay. E poi possiamo anche allenarci semplicemente a fare i suoni, allenarci semplicemente a muovere le corde vocali con un esercizio molto semplice che faccio fare spesso ai bambini. E si impara piano piano a sistemare i suoni molto, molto dolcemente, molto precisamente. E questo è un esercizio molto, molto semplice. Ecco, intanto ne abbiamo due che ce li siamo portati a casa, anzi tre, perché aiuta anche cantare con sulla canzone del cantante preferito. Questo assolutamente. Questo funziona. Assolutamente. Cerchiamo perché... qualcuno che insomma canti in modo semplice, come dico io, no? Ma soprattutto che ci rappresenti, soprattutto che ci renda felici. Se riusciamo a trovare questo collegamento è molto più semplice imparare ed apprendere. Prima di andare a Firenze, intanto saluto Carlo. Francesca ci scrive: io ero balbuziente, il canto cantilenato mi ha aiutato ad uscire da questo problema. Professor Fussi, è così? Lo suggeriamo. È una tecnica di controllo che viene utilizzata appunto nel trattamento delle balbuzie, perché così come in effetti cantando non si balbetta mai, allora utilizzare una prosodia cantilenata per esprimere i propri concetti attraverso le parole permette un maggiore controllo del ritmo verbale e quindi annulla o controlla meglio la disfluenza, cioè la balbuzia. Carlo, buongiorno, è arrivato buongiorno il suo momento. Eccoci. Pronto? Carlo, siamo qua. Eccomi. Benissimo, allora io faccio parte della categoria massimo, cioè praticamente quando apro bocca scappano. Eppure ha una bella voce, Carlo. Quando comincio a cantare, assolutamente no. Ho risolto il problema, fin da piccolo, attenzione, fischiando, perché a me il canto mi rilassa e ho scoperto che fischiando riesco a fingere la stessa tranquillità. Il rovescio della medaglia è questo, che anche io fischio anche nel mondo del lavoro, sì, di prendere in giro le persone, e se la prendono a male. Senta Carlo, mi fa una bella fischiettatina? Devo continuare? continuare. No, ma Carlo è bravissimo. Danila, che cosa ti dice il fischio di Carlo? Perché oggi ai nostri ascoltatori possiamo dire parlate, presentatevi. Danila Satragno e il professor Fussi troveranno i vostri punti di forza e i vostri punti di debolezza. Cantate se volete cantare, ma se non sapete cantare fischiate, come ha fatto Carlo. Certo, e dal fischio di Carlo si capisce perfettamente che lui è in grado di riprodurre gli intervalli, assolutamente, la sua voce era bella, era eufonica, ecco, si evince però qualche problema di respirazione, infatti non riusciva a posizionare le fiate, si interrompeva un po' il fischio, ma sicuramente una persona può essere intonata, perché la melodia era rispettata. Se il fischio, ecco, se noi riconosciamo la melodia con il fischio vuol dire che la persona è intonata. E noi ringraziamo Carlo dalla provincia di Firenze, andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi di nuovo qui aspetto il vostro canto, la vostra voce. Il professor Fussi e Danila Satragno faranno una sorta di carta d'identità della vostra voce, magari scoprirete che non siete così stonati. Essere e benessere. Avete pensato, ci state pensando che a volte ad essere stonati, a proposito di voce, sono un po' le nostre relazioni? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il nostro dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Esperto tra l'altro del nostro Daily Lab, i suoi posti sono molto letti, io vi invito a leggerle, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar, la voce ha il timbro, il tono, l'intensità, anche le nostre relazioni hanno delle caratteristiche. Certo, e anche per le nostre relazioni vale il vecchio principio della musica, cioè se le tonchi fa la musica, è il tono che fa la musica. Le relazioni possono essere stonate a volte anche semplicemente perché il tono che utilizziamo nel comunicare o nel relazionarci non è efficace. Ad esempio, una cosa gentile detta con un tono sbagliato suona come un'offesa. Sicuramente, e per restare più intonati in qualche modo nelle relazioni dovremmo stare attenti a coltivare alcune delle nostre abilità. Ad esempio, avere una buona autoriflessività, cioè capire per esempio se davvero siamo interessati ad entrare in una relazione intonata con quella persona, mentre alcuni a volte si autocostringono ad entrare in relazioni quando non sono consapevoli che non hanno nessuna voglia di entrare in relazione con quella persona e non ce n'è nessuna necessità. E gli altri due punti fondamentali sono la scelta dei tempi e la scelta dei luoghi nei quali comunicare in maniera intonata. Il ti amo al chiaro di luna è diverso dal ti amo nel traffico e sulla Vespa, ma entrambi possono avere una loro significatività. Certo. L'altra cosa che dobbiamo tenere presente è la scelta degli argomenti. Alcune volte, alcune persone per paura dei vuoti nella conversazione, scelgono nelle loro relazioni degli argomenti noiosi, irrilevanti o addirittura irritanti. E per tornare al tono, ci sono alcune persone che non sono capaci di rendersi conto quando non è il momento di scherzare o quando non è il momento di essere formali o ancora di più quando non è il momento di essere irridenti, e alcuni lo fanno come forma di scherzo o secondo loro di simpatia, non rendendosi conto che risultano stonati rispetto al tema, all'argomento e al tipo di relazione che abbiamo instaurato. Quindi, dottor Aquilar, ci dia un consiglio per un po' accordare le nostre relazioni, immaginando che siano uno strumento che ha perso un po' la cordatura. Dobbiamo fermarci molto bene sulle nostre emozioni e stare attenti alla nostra emozione del momento. Subito dopo dobbiamo allenarci a metterci nei panni dell'altro, quindi a comprendere la mente dell'altro, e solo a questo punto potremo, forzando un poco l'eccesso di istintività, comunicare in maniera adeguata. È come quando si canta in un coro, dobbiamo scegliere il tempo, dobbiamo scegliere il momento, dobbiamo scegliere il volume della nostra comunicazione e dobbiamo anche accompagnarla con un non verbale che non sia eccessivo, né eccessivamente caramelloso, né eccessivamente respingente. E a quel punto possiamo, come una voce in un coro, comunicare meglio e avere il risultato di una buona musica interattiva. Danila, lo vuoi il dottor Aquilar? Sì. Vero? Vero? Perfetto. Assolutamente. In fondo, dottor Aquilar, siamo tutti coristi. siamo tutti coristi e quando dobbiamo fare i solisti dobbiamo stare attenti a non farlo in maniera narcisistica, altrimenti l'interlocutore si stanca, non ci ascolta più e addirittura se ne va proprio. Grazie dottor Aquila, io la saluto ma lei ritorni, Come no? Grazie, grazie, un saluto. Buona giornata. A tutti gli ascoltatori, arrivederci. Buongiorno Pulcini. Buongiorno Visione. Bene, allora oggi cominceremo con la cosa più importante che imparerete alle elementari pinguinesi. Chi sa dirvi di che si tratta? Nostra canzone del cuore. Grazie, Gloria, bravissima. Sì, senza la canzone del cuore non saremmo completi, vero? No! No. Ma, miei cari, purtroppo è una cosa che non posso insegnarvi io. Qualcuno sa perché? Chi lo sa? Chi lo sa? Non puoi insegnarcela, perché ognuno deve trovare la sua canzone del cuore da solo. Molto bene. È la voce che sentiamo dentro. Sì. Quello che siamo veramente. Sì, grazie Gloria, magnifico, brava. E a proposito di musica, qual è la canzone del cuore, quella che canticchiate più spesso? E c'è un luogo, un momento che accendono le vostre ugole? Danila, parlavi proprio della canzone del cuore, di quella che ci piace, che ci fa sentire bene. Assolutamente, che ci riporta a un momento della nostra infanzia, della nostra giovinezza in cui siamo stati particolarmente bene. Questo è veramente scientificamente provato, crea endorfine, l'ormone del benessere, no? Del divertimento e dello star bene, quindi è molto molto importante. Ognuno di noi ha una canzone nel cassetto, ha una melodia che lo fa star bene. Intanto noi continuiamo a parlare di voce, professor Fussi, impariamo ad usarla bene anche per proteggerla, per mantenerla sana, ma anche per avere una comunicazione efficace. Intanto professore, ci sono alcuni segnali che indicano che stiamo tirando un po' la corda o le corde, questo me lo dirà lei, sentiamo. Rimango senza fiato quando parlo per qualche minuto di fila. La mia voce mi abbandona nel mezzo dei discorsi. La sua qualità varia durante la giornata. Al mattino è piena, la sera quasi non si sente, si affievolisce. Prima di parlare, devo sempre schiarirmi la voce. Professor Fussi, tanti piccoli problemi. Esatto, la fatica fonatoria o in generale il bisogno di schiarire la voce, la sensazione che il suono diminuisca di volume, si alteri la qualità del suono che diventa non più pulito, più rauco, il bisogno appunto di schiarire, possono essere tutte manifestazioni legate a un non buono stato di salute della nostra corda vocale e in particolare uno scarso stato di idratazione. Ora la disidratazione della corda crea un movimento dell'onda mucosa vibratoria molto più rigido, molto più meno ampio in ampiezza di scorrimento e quindi meno armonici nella nostra voce. Le cause possono essere la disidratazione oppure la presenza del reflusso gastroesofageo, altre condizioni anche di alterazioni metaboliche quali il diabete oppure delle vere e proprie affezioni legate al traumatismo, allo sforzo vocale, quando i bordi delle corde urtano, collidono e si formano sul bordo appunto delle vesciche dette edemi oppure degli spessimenti detti noduli, la nostra voce si altera proprio per lo sforzo vocale che abbiamo compiuto. Professore, diamo un'indicazione alle persone che mi stanno scrivendo, persone che mi raccontano di avere una voce spesso roca o che sta cambiando, oppure il bisogno frequente di schiarirsi la voce, persone che come Maria e Attilio hanno degli abbassamenti di voce ricorrente. Allora, tutti questi segnali, quali sono quelli che ci devono spingere a farci visitare, insomma, andare a dare una controllata al nostro apparato fonatorio? Sì, la percezione appunto che la nostra voce è alterata, non è più pulita e sporca, oppure che si interrompa il suono, mentre sto parlando sento che la voce si incrina e si stimbra, come ho fatto adesso, sì. Oppure anche che c'è una sorta di fatica fonatoria a continuare a parlare e la voce si spegne, la voce si indebolisce, sono tutti segnali appunto che denotano o la presenza di un'affezione sul bordo della corda oppure il fatto che ci sia una scarsa idratazione sulla mucosa e bisogna appunto poi andare a controllare se si tratta di una lesione oppure se si tratta di uno stato generale che può essere migliorato con delle norme di igiene vocale, di idratazione oppure se è necessario fare una riabilitazione, se il motivo sua è legato a una cattiva conduzione dell'emissione vocale. Anna ci chiama dalla provincia di Roma, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, una domanda. Io ho questa voce così doppia, diciamo, che lavoro poi in uno studio medico dove spesso mi scambiano per un uomo. Ma... ora, io ho smesso di fumare 5 anni fa e questa voce non migliora, è sempre così forte. A me, io la trovo molto sensuale. Danila. Anche per me è una voce molto, veramente molto gradevole, inconfondibile che sia una femmina. Ovviamente chi ha fumato in passato e si è abituato a parlare quindi in un modo leggermente più basso del solito, può con degli semplicissimi esercizi imparare a usare sempre un tono più alto, ovviamente però ben supportato dalla respirazione diaframmatica. Un suono che vibri di più a livello della maschera, quindi intorno al naso, ecco, nella parte più alta del viso. Ecco, questo potrebbe essere un buon allenamento, cercare di far risuonare la voce là. Però Danila, io allora consigli, avete smesso di fumare, la vostra voce ancora è rimasta quella del fumatore, ecco un piccolo segreto facile facile spiegato da Danila Satragno. Danila, ecco, noi, per esempio, potrebbe essere una cosa molto divertente, imparare a respirare nel modo giusto, che lo diciamo in un modo che tutte le persone possano capire, respirare cercando di muovere la pancia, di portare in avanti l'addome e di aprire anche le costole. In questo modo vuol dire che stiamo respirando profondamente e quindi che stiamo probabilmente usando bene il diaframma. Respirare profondamente e poi provare a emettere un suono comodo il più lungo possibile, almeno 10 secondi. Morbidamente, senza urlare e allenandoci a questo suono che vedremo ogni settimana e ogni giorno che lo faremo sempre di più, diventerà più lungo, più morbido, sicuramente una voce più squillante e a quel punto avremo fatto un buon esercizio per rinforzare la nostra muscolatura. E quindi anche un consiglio per la nostra ascoltatrice che per me ha una bella voce, ma per tirare un pochino su la voce, soprattutto nelle persone che hanno smesso di fumare, sono state bravissime e che adesso vogliono avere una voce, come si chiama professor Fussi? Più alta, più meno rocca? Sì, più acuta come frequenza fondamentale, quindi più femminile, anche perché l'aggravamento tonale nella donna che ha ritenzione idrica e se è stata fumatrice comporta un ingrossamento, un gonfiore delle corde vocali, quindi un numero di vibrazioni al secondo che tende ad abbassarsi, per cui la voce diventa più profonda, più da e può essere in effetti scambiata per telefono per quella di una voce maschile. Essere e benessere. Eccoci tornati insieme per parlare di un compagno prezioso per la nostra igiene orale, lo spazzolino da denti. Sceglierlo bene è naturalmente il primo passo per avere denti sani e puliti. In linea con noi per orientarci nelle scelte giuste, la dottoressa Adele Fantoni, medico, chirurgo, specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento a Milano. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, allora, partiamo dalle setole, meglio naturali o artificiali? Artificiali. Senza dubbio? Senza dubbio, perché sono fabbricate, usiamo un termine molto semplice, la ricerca da parte delle case produttrici è talmente avanzata che il prodotto è assolutamente sicuro e idoneo all'uso. Quindi non dobbiamo avere dubbi. Il naturale non è sinonimo di migliore. Ciò che è prodotto tra virgolette artificialmente, cioè la setola artificiale, una setola ad alta tecnologia, quindi va benissimo. Andiamo alle variabili, morbide, medie o dure? Morbido, perché così la pulizia, diciamo, per quanto ognuno di noi voglia essere accurato, a volte fin troppo, non si traduca in un traumatismo. Cioè, se lo spazzolino, la setola è dura, può abradere sia la superficie dentale nella zona delicata del colletto, sia la gengiva vicina che lo ricopre e quindi portarne una perdita. Essere bravi, essere efficaci, vuol dire anche essere delicati, non per questo meno scrupolosi. Dottoressa, anche la forma della testina può fare la differenza. Quanto deve essere grande? Lo spazzolino più è piccolo e meglio, va in tutti